Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Filippo Gioacchin, 2007. Cuore, di Edmondo De Amicis. Novembre. Martedì, primo. Lo spazzacamino. Ieri sera andai alla sezione femminile, accanto alla nostra, per dare il racconto del ragazzo padovano alla maestra di Silvia, che lo voleva leggere. 700 ragazze ci sono. Quando arrivai, cominciarono ad uscire, tutte allegre, per le vacanze di ogni santi e dei morti. Ed ecco una bella cosa che vidi. Di fronte alla porta della scuola, dall'altra parte della via, stava, con un braccio appoggiato al muro e con la fronte contro il braccio, uno spazzacamino, molto piccolo, tutto nero in viso, col suo sacco e il suo raschiatoio, e piangeva dirottamente, singhiozzando. Due o tre ragazze della scuola gli si avvicinarono e gli dissero: «Che hai che piangi a quella maniera?» Ma egli non rispondeva e continuava a piangere. «Ma di che cos'hai? Perché piangi?» gli ripeterono le ragazze. E allora egli levò il viso dal braccio, un viso di bambino, e disse piangendo che era stato in varie case a spazzare, dove s'era guadagnato 30 soldi, e li aveva persi. Gli erano scappati da una sdrucitura d'una tasca, e faceva veder la sdrucitura. E non osava più tornare a casa senza i soldi. «Il mio padrone mi bastona», disse singhiozzando, e riabbandonò il capo sul braccio, come un disperato. Le bambine stettero a guardarlo, tutte serie. Intanto si erano avvicinate altre ragazze, grandi e piccole, povere e signore, con le loro cartelle sotto il braccio. E una grande, che aveva una penna azzurra sul cappello, cavò di tasca due soldi e disse: «Io non ho che due soldi, facciamo una colletta». «Anch'io ho due soldi», disse un'altra vestita di rosso. «Ne troveremo ben 30 fra tutte». E allora cominciarono a chiamarsi: «Amalia, Luigia, Annina, un soldo. Chi ha dei soldi? Quai soldi?» Parecchi avevano dei soldi per comprarsi fiori o quaderni e li portarono. Alcune più piccole diedero dei centesimi. Quella dalla penna azzurra raccoglieva tutto e contava a voce alta. 8, 10, 15, ma ci voleva altro. Allora comparve una più grande di tutte, che pareva quasi una maestrina, e diede mezza lira, e tutte a farle festa. Mancavano ancora 5 soldi. «Ora vengono quelle della quarta, che ne hanno», disse una. Quelle della quarta vennero, e i soldi fioccarono. Tutte s'affollavano. Ed era bello vedere quel povero spazzacamino in mezzo a tutte quelle vestite di tanti colori, a tutto quel rigirio di penne, di nastrini, di riccioli. I 30 soldi c'erano già e ne venivano ancora, e le più piccine che non avevano denaro si facevano largo fra le grandi, porgendo i loro mazzetti di fiori, tanto per dare qualcosa. Tutto a un tratto arrivò la portinaia gridando: «La signora direttrice!» Le ragazze scapparono da tutte le parti, come uno stormo di passeri, e allora si vide il piccolo spazzacamino, solo, in mezzo alla via, che si asciugava gli occhi, tutto contento, con le mani piene di denari, e aveva nella bottonatura della giacchetta, nelle tasche, nel cappello, tanti mazzetti di fiori, e c'erano anche dei fiori per terra, ai suoi piedi. Mercoledì 2, il giorno dei morti. Lettera. Questo giorno è consacrato alla commemorazione dei morti. Sai, Enrico, a quali morti dovresti tutti dedicare un pensiero in questo giorno, voi altri ragazzi? A quelli che morirono per voi, per i ragazzi, per i bambini. Quanti ne morirono, e quanti ne muoiono di continuo. Pensasti mai a quanti padri si logorarono la vita al lavoro, a quante madri discesero nella fossa innanzitempo, consumate dalle privazioni a cui si condannarono per sostenere i loro figliuoli? Sai quanti uomini si piantarono un coltello nel cuore per la disperazione di vedere i propri ragazzi nella miseria? E quante donne s'annegarono, o morirono di dolore, o impazzirono per aver perduto un bambino? Pensa a tutti quei morti in questo giorno, Enrico. Pensa alle tante maestre che son morte giovani, intisichite dalle fatiche della scuola, per amore dei bambini, da cui non ebbero cuore di separarsi. Pensa ai medici che morirono di malattie attaccaticce, sfidate coraggiosamente per curare i fanciulli. Pensa a tutti coloro che nei naufragi, negli incendi, nelle carestie, in un momento di supremo pericolo, cedettero all'infanzia l'ultimo tozzo di pane, l'ultima tavola di salvamento, l'ultima fune per scappare dalle fiamme, e spirarono contenti del loro sacrificio, che serbava in vita un piccolo innocente. Sono innumerevoli, Enrico, questi morti. Ogni cimitero ne racchiude centinaia di queste sante creature, che se potessero levarsi un momento dalla fossa, griderebbero il nome di un fanciullo, al quale sacrificarono i piaceri della gioventù, la pace della vecchiaia, gli affetti, l'intelligenza, la vita. Spose di 20 anni, uomini nel fiore delle forze, vecchie ottuagenarie, giovinetti, martiri eroici e oscuri dell'infanzia, così grandi e così gentili che non fa tanti fiori la terra. Quanti ne dovremmo dare ai loro sepolcri? Tanto siete amati, o fanciulli. Pensa oggi a quei morti con gratitudine e sarai più buono e più affettuoso con tutti quelli che ti voglion bene e che fatican per te, caro figliuol mio fortunato, che nel giorno dei morti non hai ancora da piangere nessuno. Firmato tua madre. Venerdì 4. Il mio amico Garrone. Non furono che 2 giorni di vacanza e mi parve di stare tanto tempo senza rivedere Garrone. Quanto più lo conosco, tanto più gli voglio bene. E così segue a tutti gli altri, fuorché ai prepotenti, che con lui non se la dicono, perché egli non lascia far prepotenze. Ogni volta che uno grande alza la mano su uno piccolo, il piccolo grida «Garrone!» e il grande non picchia più. Suo padre è macchinista della strada ferrata. Egli cominciò tardi le scuole, perché fu ammalato 2 anni. È il più alto e il più forte della classe. Alza un banco con una mano. Mangia sempre. È buono. Qualunque cosa gli domandino, matita, gomma, carta, temperino, impresta o dà tutto, e non parla e non ride in scuola, se ne sta sempre immobile nel banco, troppo stretto per lui, con la schiena arrotondata e il testone dentro le spalle, e quando lo guardo mi fa un sorriso con gli occhi socchiusi, come per dirmi «Ebbene, Enrico, siamo amici?» Mi fa ridere, grande e gosso com'è, che ha la giacchetta, calzoni, maniche, tutto troppo stretto e troppo corto, un cappello che non gli sta in capo, il capo rapato, le scarpe grosse e una cravatta come attorcigliata come una corda. Caro Garrone, basta guardarlo in viso una volta per prendergli affetto. Tutti i più piccoli gli vorrebbero essere vicini di banco. Sa bene l'aritmetica. Porta i libri a castellina, legati con una cima di cuoio rosso. Ha un coltello col manico di madreperla che trovò l'anno scorso in piazza d'armi e un giorno si tagliò un dito fino all'osso, ma nessuno in scuola se ne avvide e a casa non fiatò per non spaventare i parenti. Qualunque cosa si lascia dire per celia e mai se ne ha per male, ma guai se gli dicono «Non è vero!» quando afferma una cosa, getta fuoco dagli occhi allora e martella pugni da staccare il banco. Sabato mattina diede un soldo a uno della prima superiore che piangeva in mezzo alla strada perché gli avevan preso il suo e non poteva più comprare il quaderno. Ora sono 3 giorni che sta lavorando attorno a una lettera di 8 pagine con ornati a penna nei margini per l'onomastico di sua madre, che spesso viene a prenderlo ed è alta e grossa come lui e simpatica. Il maestro lo guarda sempre e ogni volta che gli passa accanto gli batte una mano sul collo come un buon torello tranquillo. Io gli voglio bene. Sono contento quando stringo nella mia la sua grossa mano, che parla mano d'un uomo. Sono così certo che rischierebbe la vita per salvare un compagno, che si farebbe anche ammazzare per difenderlo. Si vede così chiaro nei suoi occhi. E benché paia sempre che brontoli con quel vocione, è una voce che viene da un cor gentile, si sente. Lunedì 7. Il carbonaio e il signore. Non l'avrebbe mai detta Garrone, sicuramente, quella parola che disse ieri mattina Carlo Nobis a Betti. Carlo Nobis è superbo perché suo padre è un gran signore, un signore alto, con la barba nera, molto serio, che viene quasi ogni giorno ad accompagnare il figliuolo. Ieri mattina Nobis si bisticciò con Betti, uno dei più piccoli, figliuolo d'un carbonaio, e non sapendo più che rispondergli, perché aveva torto, gli disse forte: «Tuo padre è uno straccione!» Betti arrossì fino ai capelli e non disse nulla, ma gli vennero le lacrime agli occhi e, tornato a casa, ripeté la parola a suo padre. Ed ecco il carbonaio, un piccolo uomo tutto nero, che compare alla lezione del dopo pranzo col ragazzo per mano a fare le sue lagnanze al maestro. Mentre faceva le sue lagnanze al maestro e tutti tacevano, il padre di Nobis, che levava il mantello al figliuolo come al solito sulla soglia dell'uscio, udendo pronunciare il suo nome, entrò e domandò spiegazione. «È quest'operaio», rispose il maestro, «che è venuto a lagnarsi perché il suo figliolo, Carlo, disse al suo ragazzo: "Tuo padre è uno straccione". Il padre di Nobis corrugò la fronte e arrossì un poco. Poi domandò al figliuolo: «Hai detto quella parola?» Il figliuolo, ritto in mezzo alla scuola, col capo basso davanti al piccolo Betti, non rispose. Allora il padre lo prese per un braccio e lo spinse più avanti in faccia a Betti, che quasi si toccavano, e gli disse: «Domandagli scusa». Il carbonaio volle interporsi dicendo: «No, no», ma il signore non gli badò e ripeté al figliuolo: «Domandagli scusa, ripeti le mie parole. Io ti domando scusa per la parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringere la mano». Il carbonaio fece un gesto risoluto, come a dire: «Non voglio». Il signore non gli diede retta e il suo figliuolo disse lentamente, con un filo di voce, senza alzar gli occhi da terra: «Io ti domando scusa della parola ingiuriosa, insensata, ignobile che dissi contro tuo padre, al quale il mio si tiene onorato di stringer la mano». Allora il signore porse la mano al carbonaio, il quale gliela strinse con forza. E poi subito con una spinta gettò il suo ragazzo fra le braccia di Carlo Nobis. «Mi faccia il favore di metterli vicini», disse il signore al maestro. Il maestro mise Betti nel banco di Nobis. Quando furono al posto, il padre di Nobis fece un saluto e uscì. Il carbonaio rimase qualche momento sopra pensiero, guardando i due ragazzi vicini. Poi si avvicinò al banco e fissò Nobis con espressione di affetto e di rammarico, come se volesse dirgli qualcosa, ma non disse nulla. Allungò la mano per fargli una carezza, ma neppure osò, e gli strisciò solamente la fronte con le sue dita grosse. Poi si avviò all'uscio e, voltatosi ancora una volta a guardarlo, sparì. «Ricordatevi bene di quel che avete visto, ragazzi», disse il maestro. «Questa è la più bella lezione dell'anno». Giovedì 10. La maestra di mio fratello. Il figliuolo del carbonaio fu scolaro della maestra Delcati, che è venuta oggi a trovare mio fratello malaticcio e ci ha fatto ridere a raccontarci che la mamma di quel ragazzo, 2 anni fa, le portò a casa una grande grembialata di carbone per ringraziarla che aveva dato la medaglia al figliuolo e si ostinava, povera donna, che non voleva riportarsi il carbone a casa e piangeva quasi quando dovette tornarsene col grembiule pieno. Anche d'un'altra buona donna ci ha detto che le portò un mazzetto di fiori molto pesante e c'era dentro un gruzzoletto di soldi. Ci siamo molto divertiti a sentirla e così mio fratello trangugiò la medicina che prima non voleva. Quanta pazienza debbono avere con quei ragazzi della prima inferiore, tutti sdentati come vecchietti, che non pronunziano l'R o l'S, e uno tosse, l'altro fila sangue dal naso. Chi perde gli zoccoli sotto il banco e chi bela perché si è punto con la penna. E chi piange perché ha comprato un quaderno numero 2 invece di numero 1. 50 in una classe, che non sa nulla, con quei manini di burro, e dover insegnare a scrivere a tutti. Essi portano in tasca dei pezzetti di regolizia, dei bottoni, dei turaccioli di boccetta, del mattone tritato, ogni specie di cose minuscole. E bisogna che la maestra li frughi, ma nascondono gli oggetti fin nelle scarpe e non stanno attenti. Un moscone che entri per la finestra mette tutti sottosopra e l'estate portano in scuola dell'erba e dei maggiolini che volano in giro o cascano nei calamai e poi rigano i quaderni di inchiostro. La maestra deve fare la mamma con loro, aiutarli a vestirsi, fasciare le dita punte, raccattare i berretti che cascano, badare che non si scambino i cappotti, se no poi gnaulano e strillano. Povere maestre! E ancora le mamme a lagnarsi. Come va, signorina, che il mio bambino ha perso la penna? Com'è che il mio non impara niente? Perché non dà la menzione al mio, che sa tanto? Perché non fa levar quel chiodo dal banco che ha stracciato i calzoni al mio Piero? Qualche volta s'arrabbia coi ragazzi, la maestra di mio fratello, e quando non ne può più, si morde un dito per non lasciare andare una pacca. Perde la pazienza, ma poi si pente e carezza il bimbo che ha sgridato. Scaccia un monello di scuola, ma si ribeve le lacrime e va in collera coi parenti che fanno digiunare i bimbi per castigo. È giovane e grande la maestra Delcati e vestita bene. Bruna e irrequieta, che fa tutto a scatto di molla, e per un non nulla si commuove, e allora parla con grande tenerezza. «Ma almeno i bimbi le si affezionano?» le ha detto mia madre. «Molti sì», ha risposto. «Ma poi, finito l'anno, la maggior parte non ci guardan più. Quando sono coi maestri, si vergognano quasi d'essere stati da noi, da una maestra. Dopo 2 anni di cure, dopo che si è amato tanto un bambino, ci fa tristezza separarci da lui, ma si dice: «Oh, di quello lì son sicura, quello lì mi vorrà bene». Ma passano le vacanze, si rientra alla scuola, gli corriamo incontro: «Oh, bambino, bambino mio!» E lui volta il capo da un'altra parte. Qui la maestra si è interrotta. «Ma tu non farai così, piccino?» ha detto poi, alzandosi con gli occhi umidi e baciando mio fratello. «Tu non volterai il capo dall'altra parte, non è vero? Non la rinnegherai, la tua povera amica?» Giovedì 10. Lettera. Mia madre. In presenza della maestra di tuo fratello, tu mancasti di rispetto a tua madre. Che questo non avvenga mai più, Enrico, mai più. La tua parola irriverente m'è entrata nel cuore come una punta d'acciaio. Io pensai a tua madre quando, anni sono, stette chinata tutta una notte sul tuo piccolo letto a misurare il tuo respiro, piangendo sangue dall'angoscia e battendo i denti dal terrore, che credeva di perderti. Ed io temeva che smarrisse la ragione. E a quel pensiero provai un senso di ribrezzo per te. Tu offender tua madre che darebbe un anno di felicità per risparmiarti un'ora di dolore, che mendicherebbe per te, che si farebbe uccidere per salvarti la vita. Senti, Enrico, fissati bene in mente questo pensiero. Immagina pure che ti siano destinati nella vita molti giorni terribili. Il più terribile di tutti sarà il giorno in cui perderai tua madre. Mille volte, Enrico, quando già sarai uomo, forte, provato a tutte le lotte, tu la invocherai, oppresso da un desiderio immenso di risentire un momento la sua voce e di rivedere le sue braccia aperte per gettarviti singhiozzando, come un povero fanciullo senza protezione e senza conforto. Come ti ricorderai allora d'ogni amarezza che le avrai cagionato e con che rimorsi le sconterai tutte, infelice. Non sperar serenità nella tua vita se avrai contristato tua madre. Tu sarai pentito, le domanderai perdono, venererai la sua memoria, inutilmente. La coscienza non ti darà pace. Quella immagine dolce e buona avrà sempre per te un'espressione di tristezza e di rimprovero che ti metterà l'anima alla tortura. Oh Enrico, bada, questo è il più sacro degli affetti umani, disgraziato chi lo calpesta. L'assassino che rispetta sua madre ha ancora qualcosa di onesto e di gentile nel cuore. Il più glorioso degli uomini che l'addolori e l'offenda non è che una vile creatura. Che non t'esca mai più dalla bocca una dura parola per colei che ti diede la vita. E se una ancora te ne sfuggisse, non sia il timore di tuo padre, sia l'impulso dell'anima che ti getti ai suoi piedi a supplicarla che col bacio del perdono ti cancelli dalla fronte il marchio dell'ingratitudine. Io t'amo, figliuol mio, tu sei la speranza più cara della mia vita, ma vorrei piuttosto vederti morto che ingrato a tua madre. Va, e per un po' di tempo non portarmi più la tua carezza, non te la potrei ricambiare col cuore. Firmato tuo padre. Domenica 13. Il mio compagno Coretti. Mio padre mi perdonò, ma io rimasi un poco triste. E allora mia madre mi mandò col figliuolo grande del portinaio a fare una passeggiata sul corso. A metà circa del corso, passando vicino a un carro fermo davanti a una bottega, mi sento chiamare per nome. Mi volto. Era Coretti, il mio compagno di scuola, con la sua maglia color cioccolata e il suo berretto di pelo di gatto, tutto sudato e allegro, che aveva un gran carico di legna sulle spalle. Un uomo ritto sul carro gli porgeva una bracciata di legna per volta. Egli le pigliava e le portava nella bottega di suo padre, dove in fretta e in furia le accatastava. «Che fai, Coretti?» gli domandai. «Non vedi?» rispose tendendo le braccia per pigliare il carico. «Ripasso la lezione!» Io risi, ma egli parlava sul serio e presa la bracciata di legna cominciò a dire correndo. Chiamansi accidenti del verbo le sue variazioni secondo il numero e la persona. E poi buttando giù la legna e accatastandola, secondo il tempo a cui si riferisce l'azione. E tornando verso il carro a prendere un'altra bracciata, secondo il modo con cui l'azione è enunciata. Era la nostra lezione di grammatica per il giorno dopo. «Che vuoi?» mi disse. «Metto il tempo a profitto. Mio padre è andato via col garzone per una faccenda. Mia madre è malata. Tocca a me scaricare. Intanto ripasso la grammatica. È una lezione difficile oggi. Non riesco a pestarmela in testa. Mio padre ha detto che sarà qui alle 7 per darvi i soldi, disse poi all'uomo del carro. Il carro partì. Vieni un momento in bottega, mi disse Coretti. Entrai. Era uno stanzone pieno di cataste di legna e di fascine, con la stadera da una parte. Oggi è giorno di sgobbo. Te lo accerto io, ripigliò Coretti. Devo fare il lavoro a pezzi e a bocconi. Stavo scrivendo le proposizioni. È venuta gente a comprare. Mi son rimesso a scrivere. Eccoti il carro. Questa mattina ho già fatto 2 corse al mercato della legna, in piazza Venezia. Non mi sento più le gambe e ho le mani gonfie. Starei fresco se avessi il lavoro di disegno. E intanto dava un colpo di scopa alle foglie secche e ai fuscelli che coprivano l'ammattonato. «Ma dove lo fai il lavoro, Coretti?» gli domandai. «Non qui di certo», riprese. «Vieni a vedere». E mi condusse in uno stanzino dietro la bottega, che serve da cucina e da stanza da mangiare, con un tavolo in un canto dove ci aveva i libri e i quaderni, e il lavoro incominciato. «Giusto appunto», disse, «ho lasciato la seconda risposta per aria. Col cuoio si fanno le calzature, le cinghie, ora ci aggiungo le valigie». E prese la penna, si mise a scrivere con la sua bella calligrafia. «C'è nessuno?» s'udì gridare in quel momento nella bottega. Era una donna che veniva a comprar fascinotti. «Eccomi!» rispose Coretti e saltò di là. Pesò i fascinotti, prese i soldi, corse in un angolo a segnar la vendita in uno scatafascio e ritornò al suo lavoro dicendo «Vediamo un po' se mi riesce di finire il periodo». E scrisse «Le borse da viaggio, gli zaini per i soldati». «Ah, il mio povero caffè che scappa via!» gridò all'improvviso e corse al fornello a levare la caffettiera dal fuoco. «È il caffè per la mamma», disse. «Bisognò bene che imparassi a farlo. Aspetta un po' che glielo portiamo, così ti vedrà, le farà piacere. Sono 7 giorni che ha letto. Accidenti del verbo. Mi scotto sempre le dita con questa caffettiera. Che cosa ho da aggiungere dopo gli zaini per i soldati? Ci vuole qualche altra cosa e non la trovo. Vieni dalla mamma». Aperse un uscio. Entrammo in un'altra camera piccola. C'era la mamma di Coretti in un letto grande, con un fazzoletto bianco intorno al capo. «Ecco il caffè, mamma», disse Coretti, porgendo la tazza. «Questo è un mio compagno di scuola». «Ah, bravo il signorino», mi disse la donna. «Vieni a far visita ai malati, non è vero?» Intanto Coretti accomodava i guanciali dietro alle spalle di sua madre, raggiustava le coperte del letto, riattizzava il fuoco, cacciava il gatto dal cassettone. «Vi occorre altro, mamma?» domandò poi ripigliando la tazza. «Li avete presi 2 cucchiai di sciroppo? Quando non ce ne sarà più, darò una scappata dallo speziale. Le legna sono scaricate. Alle 4 metterò la carne al fuoco, come avete detto. E quando passerà la donna del burro, le darò quegli 8 soldi. Tutto andrà bene, non vi date pensiero». «Grazie, figliuolo», rispose la donna. «Povero figliuolo, va, egli pensa a tutto». Volle che pigliassi un pezzo di zucchero e poi Coretti mi mostrò un quadretto, il ritratto in fotografia di suo padre, vestito da soldato, con una medaglia al valore che guadagnò nel 66, nel quadrato del principe Umberto. Lo stesso viso del figliuolo, con quegli occhi vivi e quel sorriso così allegro. Tornammo alla cucina. «Ho trovato la cosa», disse Coretti, e aggiunse sul quaderno «si fanno anche i finimenti dei cavalli. Il resto lo farò stasera. Starò levato fino a tardi. Felice te che hai tutto il tempo per studiare e puoi ancora andare a passeggio». E sempre gaio e lesto, rientrato in bottega, cominciò a mettere i pezzi di legno sul cavalletto e a segarli per mezzo e diceva «Questa è ginnastica, altro che la spinta delle braccia avanti. Voglio che mio padre trovi tutte queste legna segata quando torna a casa, sarà contento. Il male è che dopo aver seccato faccio dei T e degli L che paion dei serpenti, come dice il maestro. Che c'ho da fare? Gli dirò che ho dovuto menar le braccia. Quello che importa è che la mamma guarisca presto, questo sì. Oggi sta meglio, grazie al cielo. La grammatica la studierò domattina al canto del gallo. Oh, ecco la carretta coi ceppi. Al lavoro. Una carretta carica di ceppi si fermò davanti alla bottega. Coretti corse fuori a parlare con l'uomo, poi tornò. Ora non posso più tenerti compagnia, mi disse. Arrivederci domani. Hai fatto bene a venirmi a trovare. Buona passeggiata, felice te. E strettami la mano, corse a pigliare il primo ceppo e ricominciò a trottare fra il carro e la bottega, col viso fresco come una rosa sotto il suo berretto di pel di gatto e vispo che metteva allegrezza a vederlo. Felice te, egli mi disse. Ah no, Coretti, no. Sei tu il più felice. Tu perché studi e lavori di più, perché sei più utile a tuo padre e a tua madre, perché sei più buono, 100 volte più buono e più bravo di me, caro compagno mio. Venerdì 18. Il direttore. Coretti era contento questa mattina perché è venuto ad assistere al lavoro d'esame mensile il suo maestro di seconda, Coatti. Un omone con una grande capigliatura crespa, una gran barba nera, 2 grandi occhi scuri e una voce da bombarda, il quale minaccia sempre i ragazzi di farli a pezzi e di portarli per il collo in questura, e fa ogni specie di facce spaventevoli, ma non castiga mai nessuno, anzi, sorride sempre dentro la barba, senza farsi scorgere. 8 sono, con Coatti, i maestri, compreso un supplente, piccolo e senza barba, che pare un giovinetto. C'è un maestro di quarta, zoppo, imbacuccato in una grande cravatta di lana, sempre tutto pieno di dolori, e si prese quei dolori quando era maestro rurale, in una scuola umida, dove i muri gocciolavano. Un altro maestro di quarta è vecchio e tutto bianco, ed è stato maestro dei ciechi. Ce n'è uno ben vestito, con gli occhiali e 2 baffetti biondi, che chiamano l'avvocatino, perché facendo il maestro studiò da avvocato e prese la laurea e fece anche un libro per insegnare a scrivere le lettere. Invece quello che ci insegna la ginnastica è un tipo di soldato, è stato con Garibaldi e ha sul collo la cicatrice d'una ferita di sciabola toccata alla battaglia di Milazzo. Poi c'è il direttore, alto, calvo, con gli occhiali d'oro, con la barba grigia che gli viene sul petto, tutto vestito di nero e sempre abbottonato fin sotto il mento, così buono coi ragazzi che quando entrano tutti tremanti in direzione, chiamati per un rimprovero, non li sgrida, ma gli piglia per le mani e dice tante ragioni che non dovevano far così e che bisogna che si pentano e che promettano di essere buoni. E parla con tanta buona maniera e con una voce così dolce che tutti escono con gli occhi rossi, più confusi che se li avesse puniti. Povero direttore, egli è sempre il primo al suo posto la mattina ad aspettare gli scolari e a dar retta ai parenti. E quando i maestri son già avviati verso casa, gira ancora intorno alla scuola a vedere se i ragazzi non si caccino sotto le carrozze o non si trattengano per le strade a far querciola o a empire gli zaini di sabbia e di sassi. E ogni volta che appare a una cantonata, così alto e nero, stormi di ragazzi scappano da tutte le parti, piantandogli il giuoco dei pennini e delle bilie. Ed egli li minaccia con l'indice, da lontano, con la sua aria amorevole e triste. Nessuno lo ha più visto ridere, dice mia madre, dopo che gli è morto il figliuolo, che era volontario nell'esercito. Ed egli ha sempre il suo ritratto davanti agli occhi, sul tavolo della direzione. E se ne voleva andare dopo questa disgrazia. Aveva già fatto la sua domanda di riposo al municipio e la teneva sempre sul tavolino, aspettando di giorno in giorno a mandarla, perché gli rincresceva di lasciare i fanciulli. Ma l'altro giorno pareva deciso, e mio padre, che era con lui nella direzione, gli diceva: «Che peccato che se ne vada, signor direttore». Quando entrò un uomo a far iscrivere un ragazzo che passava da un'altra sezione alla nostra perché aveva cambiato di casa. A vedere quel ragazzo, il direttore fece un atto di meraviglia. Lo guardò un pezzo, guardò il ritratto che tiene sul tavolino e tornò a guardare il ragazzo, tirandoselo fra le ginocchia e facendogli alzare il viso. Quel ragazzo somigliava tutto al suo figliuolo morto. Il direttore disse: «Va bene». Fece l'iscrizione, congedò padre e figlio e restò pensieroso. «Che peccato che se ne vada», ripeté mio padre. E allora il direttore prese la sua domanda di riposo, la fece in due pezzi e disse: «Rimango». Martedì 22. I soldati. Il suo figliuolo era volontario nell'esercito quando morì. Per questo il direttore va sempre sul corso a veder passare i soldati quando usciamo dalla scuola. Ieri passava un reggimento di fanteria e 50 ragazzi si misero a saltellare intorno alla banda musicale, cantando e battendo il tempo con le righe sugli zaini e sulle cartelle. Noi stavamo in un gruppo sul marciapiede a guardare. Garrone, strizzato nei suoi vestiti troppo stretti, che addentava un gran pezzo di pane. Votini, quello ben vestito, che si levava sempre i peluzzi dai panni. Precossi, il figliuolo del fabbro, con la giacchetta di suo padre, e il calabrese, e il muratorino, e Crossi con la sua testa rossa, e Franti con la sua faccia tosta, e anche Robetti, il figliuolo del capitano d'artiglieria, quello che salvò il bambino dall'omnibus e che ora cammina con le stampelle. Franti fece una risata in faccia a un soldato che zoppicava, ma subito si sentì la mano d'un uomo sulla spalla. Si voltò. Era il direttore. «Bada», gli disse il direttore, «schernire un soldato quando è nelle file, che non può né vendicarsi né rispondere, è come insultare un uomo legato. È una viltà». Franti scomparve. I soldati passavano a quattro, sudati e coperti di polvere, e i fucili scintillavano al sole. Il direttore disse: «Voi dovete voler bene ai soldati, ragazzi. Sono i nostri difensori, quelli che andrebbero a farsi uccidere per noi, se domani un esercito straniero minacciasse il nostro paese. Sono ragazzi anch'essi, hanno pochi anni più di voi. E anch'essi vanno a scuola, e ci sono poveri e signori fra loro, come fra voi, e vengono da tutte le parti d'Italia. Vedete, si possono quasi riconoscere al viso, passano dei siciliani, dei sardi, dei napoletani, dei lombardi. Questo qui è un reggimento vecchio, di quelli che hanno combattuto nel 1848. I soldati non sono più quelli, ma la bandiera è sempre la stessa. Quanti erano già morti per il nostro paese intorno a quella bandiera 20 anni prima che voi nasceste?» «Eccola qui», disse Garrone. E infatti si vedeva poco lontano la bandiera che veniva innanzi, al di sopra delle teste dei soldati. «Fate una cosa, figliuoli», disse il direttore. «Fate il vostro saluto di scolari, con la mano alla fronte, quando passano i tre colori». La bandiera, portata da un ufficiale, ci passò davanti, tutta lacera e stinta, con le medaglie appese all'asta. Noi mettemmo la mano alla fronte, tutti insieme. L'ufficiale ci guardò sorridendo e ci restituì il saluto con la mano. «Bravi ragazzi», disse uno dietro di noi. Ci voltammo a guardare. Era un vecchio che aveva l'occhiello del vestito, il nastrino azzurro della campagna di Crimea, un ufficiale pensionato. «Bravi», disse, «avete fatto una cosa bella». Intanto la banda del reggimento svoltava in fondo al corso, circondata da una turba di ragazzi, e 100 grida allegre accompagnavano gli squilli delle trombe, come un canto di guerra. «Bravi!» ripeté il vecchio ufficiale, guardandoci. «Chi rispetta la bandiera da piccolo la saprà difendere da grande!» Mercoledì 23. Il protettore di Nelly. Anche Nelly, ieri, guardava i soldati, povero gobbino, ma con un'aria così, come se pensasse: «Io non potrò mai essere un soldato. Egli è buono, studia, ma è così magrino e smorto e respira a fatica. Porta sempre un lungo grembiale di tela nera lucida. Sua madre è una signora piccola e bionda, vestita di nero, e viene sempre a prenderlo al finis, perché non esca nella confusione con gli altri, e lo accarezza. I primi giorni, perché ha la disgrazia di essere gobbo, molti ragazzi lo beffavano e gli picchiavano sulla schiena con gli zaini, ma egli non si rivoltava mai e non diceva mai nulla a sua madre, per non darle quel dolore di sapere che suo figlio era lo zimbello dei compagni. Lo schermivano ed egli piangeva e taceva, appoggiando la fronte sul banco. Ma una mattina saltò su Garrone e disse: «Il primo che tocca Nelly, gli do uno scapaccione che gli faccio fare 3 giravolte!» Franti non gli badò. Lo scapaccione partì, l'amico fece le 3 giravolte, e dopo d'allora nessuno toccò più Nelly. Il maestro gli mise Garrone vicino, nello stesso banco. Si sono fatti amici. Nelly si è affezionato molto a Garrone. Appena entra nella scuola, cerca subito se c'è Garrone. Non va mai via senza dire: «Addio, Garrone!» E così fa Garrone con lui. Quando Nelly lascia cascar la penna o un libro sotto il banco, Garrone si china e gli porge il libro o la penna, e poi lo aiuta a rimettere la roba nello zaino e a infilarsi il cappotto. Per questo Nelly gli vuole bene e lo guarda sempre, e quando il maestro lo loda è contento come se lo dasse lui. Ora bisogna che Nelly, finalmente, abbia detto tutto a sua madre, e dagli scherni dei primi giorni e di quello che gli facevano patire, e poi del compagno che lo difese e che gli ha posto affetto, perché ecco quello che accade questa mattina. Il maestro mi mandò a portare al direttore il programma della lezione, mezz'ora prima del finis, ed io ero nell'ufficio, quando entrò una signora bionda e vestita di nero, la mamma di Nelly, la quale disse: «Signor direttore, c'è nella classe del mio figliuolo un ragazzo che si chiama Garrone?» «C'è», rispose il direttore. «Vuole avere la bontà di farlo venire un momento qui, che gli ho da dire una parola?» Il direttore chiamò il bidello e lo mandò in scuola, e dopo un minuto ecco lì Garrone sull'uscio, con la sua testa grossa e rapata, tutto stupito. Appena lo vide, la signora gli corse incontro, gli gettò le mani sulle spalle e gli diede tanti baci sulla testa, dicendo: «Sei tu, Garrone, l'amico del mio figliuolo, il protettore del mio povero bambino. Sei tu, caro, bravo ragazzo, sei tu?» Poi frugò in furia nelle tasche e nella borsa, e non trovando nulla, si staccò dal collo una catenella con una crocina e la mise al collo di Garrone, sotto la cravatta, e gli disse: «Prendila, portala per mia memoria, caro ragazzo, per memoria della mamma di Nelly, che ti ringrazia e ti benedice». Venerdì 25. Il primo della classe. Garrone s'attira l'affetto di tutti. De Rossi, l'ammirazione. Ha preso la prima medaglia, sarà sempre il primo anche quest'anno. Nessuno può competere con lui. Tutti riconoscono la sua superiorità in tutte le materie. È il primo in aritmetica, in grammatica, in composizione, in disegno. Capisce ogni cosa al volo, ha una memoria meravigliosa. Riesce in tutto senza sforzo. Pare che lo studio sia un gioco per lui. E il maestro gli disse ieri: hai avuto dei grandi doni da Dio, non hai altro a fare che non sciuparli. E per di più è grande, bello, con una gran corona di riccioli biondi, lesto che salta un banco, appoggiandoci una mano su, e sa già tirar di scherma. Ha 12 anni, è figliuolo d'un negoziante, va sempre vestito di turchino con dei bottoni dorati, sempre vivo, allegro, garbato con tutti, e aiuta quanti può all'esame, e nessuno ha mai osato fargli uno sgarbo o dirgli una brutta parola. Nobis e Franti soltanto lo guardano per traverso, e Votini schizza invidia dagli occhi, ma egli non se ne accorge neppure. Tutti gli sorridono e lo pigliano per una mano o per un braccio quando va attorno a raccogliere i lavori, con quella sua maniera graziosa. Egli regala dei giornali illustrati, dei disegni, tutto quello che a casa regalano a lui. Ha fatto per il calabrese una piccola carta geografica delle Calabrie e dà tutto ridendo, senza badarci, come un gran signore, senza predilezioni per alcuno. È impossibile non invidiarlo, non sentirsi da meno di lui in ogni cosa. Ah, io pure, come Votini, l'invidio, e provo un'amarezza, quasi un certo dispetto contro di lui, qualche volta, quando stento a fare il lavoro a casa, e penso che a quell'ora egli l'ha già finito, benissimo e senza fatica. Ma poi, quando torno a scuola, a vederlo così bello, ridente, trionfante, a sentir come risponde alle interrogazioni del maestro franco e sicuro, e com'è cortese, e come tutti gli vogliono bene, allora ogni amarezza, ogni dispetto mi va via dal cuore, e mi vergogno d'aver provato quei sentimenti. Vorrei essergli sempre vicino allora, vorrei poter fare tutte le scuole con lui. La sua presenza, la sua voce mi mette coraggio, voglia di lavorare, allegrezza, piacere. Il maestro gli ha dato da copiare il racconto mensile che leggerà domani, la piccola vedetta lombarda. Egli lo copiava questa mattina ed era commosso da quel fatto eroico, tutto acceso nel viso, con gli occhi umidi e con la bocca tremante. E io lo guardavo. Com'era bello e nobile. Con che piacere gli avrei detto sul viso, francamente, De Rossi, tu vali in tutto più di me. Tu sei un uomo a confronto mio. Io ti rispetto e ti ammiro. Sabato 26. Racconto mensile. La piccola vedetta lombarda. Nel 1859, durante la guerra per la liberazione della Lombardia, pochi giorni dopo la battaglia di Solferino e San Martino, vinta dai francesi e dagli italiani contro gli austriaci, in una bella mattinata del mese di giugno, un piccolo drappello di cavalleggeri di Saluzzo andava di lento passo, per un sentiero solitario, verso il nemico, esplorando attentamente la campagna. Guidavano il drappello un ufficiale e un sergente, e tutti guardavano lontano, davanti a sé, con occhio fisso, muti, preparati a veder da un momento all'altro biancheggiare fra gli alberi le divise degli avamposti nemici. Arrivarono così a una casetta rustica, circondata di frassini, davanti alla quale se ne stava tutto solo un ragazzo d'una dozzina d'anni, che scortecciava un piccolo ramo con un coltello per farsene un bastoncino. Da una finestra della casa spenzolava una larga bandiera tricolore. Dentro non c'era nessuno. I contadini, messa fuori la bandiera, erano scappati per paura degli austriaci. Appena visti i cavalleggeri, il ragazzo buttò via il bastone e si levò il berretto. Era un bel ragazzo, dal viso ardito, con gli occhi grandi e celesti, coi capelli biondi e lunghi. Era in maniche di camicia e mostrava il petto nudo. «Che fai qui?» gli domandò l'ufficiale, fermando il cavallo. «Perché non sei fuggito con la tua famiglia?» «Io non ho famiglia», rispose il ragazzo. «Sono un trovatello. Lavoro un po' per tutti. Sono rimasto qui per vedere la guerra».

«È morto!» esclamò l'ufficiale. «No, vive!» rispose il sergente. «Ah, povero ragazzo! Bravo ragazzo!» gridò l'ufficiale. «Coraggio! Coraggio!» Ma mentre gli diceva coraggio e gli premeva il fazzoletto sulla ferita, il ragazzo stralunò gli occhi e abbandonò il capo. Era morto. L'ufficiale impallidì e lo guardò un momento. Poi lo adagiò col capo sull'erba, s'alzò e stette a guardarlo. Anche il sergente e i due soldati, immobili, lo guardavano. Gli altri stavano rivolti verso il nemico. «Povero ragazzo!» ripeté tristemente l'ufficiale. «Povero e bravo ragazzo!» Poi s'avvicinò alla casa, levò dalla finestra la bandiera tricolore e la distese come un drappo funebre sul piccolo morto, lasciandogli il viso scoperto. Il sergente raccolse a fianco del morto le scarpe, il berretto, il bastoncino e il coltello. Stettero ancora un momento silenziosi. Poi l'ufficiale si rivolse al sergente e gli disse: «Lo manderemo a pigliare dall'ambulanza. È morto da soldato. Lo seppelliranno i soldati». Detto questo, mandò un bacio al morto con un atto della mano e gridò: «A cavallo!» Tutti balzarono in sella. Il drappello si riunì e riprese il suo cammino. E poche ore dopo il piccolo morto ebbe i suoi onori di guerra. Al tramontar del sole, tutta la linea degli avamposti italiani s'avanzava verso il nemico e per lo stesso cammino percorso la mattina dal drappello di cavalleria procedeva su due file un grosso battaglione di bersaglieri, il quale, pochi giorni innanzi, aveva valorosamente rigato di sangue il colle di San Martino. La notizia della morte del ragazzo era già corsa fra quei soldati prima che lasciassero gli accampamenti. Il sentiero, fiancheggiato da un rigagnolo, passava a pochi passi di distanza dalla casa. Quando i primi ufficiali del battaglione videro il piccolo cadavere disteso ai piedi del frassino e coperto dalla bandiera tricolore, lo salutarono con la sciabola, e uno di essi si chinò sopra la sponda del rigagnolo, che era tutta fiorita, strappò due fiori e glieli gettò. Allora tutti i bersaglieri, via via che passarono, strapparono dei fiori e li gettarono al morto. In pochi minuti il ragazzo fu coperto di fiori e ufficiali e soldati gli mandavano tutti un saluto, passando: «Bravo, piccolo lombardo! Addio, ragazzo! A te, biondino! Evviva! Gloria! Addio!» Un ufficiale gli gettò la sua medaglia al valore, un altro andò a baciargli la fronte e i fiori continuavano a piovergli sui piedi nudi, sul petto insanguinato, sul capo biondo, ed egli dormiva là nell'erba, ravvolto nella sua bandiera, col viso bianco e quasi sorridente, povero ragazzo, come se sentisse quei saluti e fosse contento d'aver dato la vita per la sua Lombardia. Martedì 29. Lettera. I poveri. Dare la vita per il proprio paese, come il ragazzo lombardo, è una grande virtù. Ma tu non trascurare le piccole virtù, figliuolo. Questa mattina, camminando davanti a me quando tornavamo da scuola, passasti accanto a una povera che teneva fra le ginocchia un bambino stentito e smorto e che ti domandò l'elemosina. Tu la guardasti e non le desti nulla, eppure ci avevi dei soldi in tasca. Senti, figliuolo, non abituarti a passare indifferente davanti alla miseria che tende la mano, e tanto meno davanti a una madre che chiede un soldo per il suo bambino. Pensa che forse quel bambino aveva fame, pensa allo strazio di quella povera donna. Te lo immagini il singhiozzo disperato di tua madre quando un giorno ti dovesse dire: Enrico, oggi non posso darti nemmeno del pane. Quand'io do un soldo a un mendico ed egli mi dice: Dio conservi la salute a lei e alle sue creature, tu non puoi comprendere la dolcezza che mi danno al cuore quelle parole, la gratitudine che sento per quel povero. Mi par davvero che quel buon augurio debba conservarci in buona salute per molto tempo, e ritorno a casa contenta e penso: oh, quel povero m'ha reso assai più di quanto gli ho dato. Ebbene, fa ch'io senta qualche volta quel buon augurio provocato, meritato da te. Togli tratto tratto un soldo dalla tua piccola borsa per lasciarlo cadere nella mano d'un vecchio senza sostegno, d'una madre senza pane, d'un bimbo senza madre. I poveri amano l'elemosina dei ragazzi perché non li umilia e perché i ragazzi, che han bisogno di tutti, somigliano a loro. Vedi che ce n'è sempre intorno alle scuole dei poveri. L'elemosina d'un uomo è un atto di carità, ma quella d'un fanciullo è insieme un atto di carità e una carezza, capisci? È come se dalla sua mano cadessero insieme un soldo e un fiore. Pensa che a te non manca nulla, ma che a loro manca tutto. Che mentre tu vuoi essere felice, a loro basta di non morire. Pensa che è un orrore che in mezzo a tanti palazzi, per le vie dove passano carrozze e bambini vestiti di velluto, ci siano delle donne, dei bimbi che non hanno da mangiare. Non avere da mangiare, Dio mio, dei ragazzi come te, buoni come te, intelligenti come te, che in mezzo a una grande città non hanno da mangiare, come belve perdute in un deserto. Oh, mai più, Enrico, non passare mai più davanti a una madre che mendica senza metterle un soldo nella mano. Firmato, tua madre. Fine del mese di novembre.